Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Bergomi, Scirea, Tardelli. Contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, va in avanti Conti, traversone, Altobelli, e sono 3, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Ieri in Messico, oggi la Spagna, la più indimenticabile di tutte, sempre alla faccia della scaramanzia, Giorgio De Luca, nostro autore. Ciao Pierluigi. Ciao, come va? Ha deciso così, ha deciso di riproporci ogni giorno un flash di come abbiamo battuto la Germania. Speriamo che non porti sfiga. Comunque. No, la porta. No. 800-24-00-24, se siete d'accordo oppure no. Comunque, stasera parte il ballo delle ultime 8, Portogallo-Polonia. Una notte senza europei, siamo un po' in astinenza, ti dico la verità. Ieri sera non sapevo cosa guardare. Cristiano Ronaldo o Lewandowski? No, lo so. Cristiano Ronaldo o Lewandowski? Cristiano Ronaldo o Lewandowski? Cristiano Ronaldo. Passa lui? Va lui in semifinale? A fatica. Peggio facile col Galles, Francia credo in qualche modo con l'Islanda e noi, non ne ho idea nemmeno io. Ci colleghiamo con Montpellier, come facciamo ogni giorno, con Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui da Montpellier, da Casa Azzurri. Oggi tempo uggioso, quindi non c'è il solito solleone, non ci sono i soliti 30 gradi, che poi in fondo non ci mancano così tanto. Allenamento a porte chiuse questa mattina, quindi ne sapremo di più dalla conferenza stampa alle 14.30, previsto l'incontro con Mattia De Sciglio, ma insomma è chiaro che questa Italia-Germania, come ben avete sottolineato con i ricordi della Spagna, è già iniziata da un pezzo. E allora ne chiacchieriamo insieme all'amico e collega Antonio Ricotta dell'agenzia Ital Press, un giovane veterano delle campagne azzurre, perché è dal 2004 che segue Azzurra nelle sue peripezie. Antonio, a proposito, ma tu che l'hai seguito, c'è qualche similitudine col clima del 2006, con la vigilia di quella incredibile semifinale e questa sfida, oppure siamo in un contesto talmente diverso? Beh, intanto buongiorno a tutti. No, io credo che ci sia qualche similitudine, intanto a partire dal gruppo, che ormai da quando siamo qui a Montpellier diciamo sempre che questo è un gruppo veramente compatto e solido, così come lo era quello del 2006. E poi un altro paragone che secondo me può starci è che nel 2006, prima della partita di Dortmund, i tedeschi erano convinti di passare facile sulla nostra nazionale. Ora ci danno già per spacciati, sia un po' la stampa tedesca che anche i giocatori, insomma, hanno fatto qualche dichiarazione mostrando grande sicurezza, e chissà che alla fine non si conclude il tutto così come nel 2006. Senti, invece qua a Montpellier c'è un clima secondo te quasi messianico ormai in questo gruppo, nel rapporto tra Conte e i giocatori? Cioè, quando noi discutiamo sul fatto che il 99% non ci sarà De Rossi, chi fa il regista, chi non fa il regista, ma percepisci anche tu questa atmosfera per cui oggi Conte a questi 23 potrebbe chiedere qualsiasi cosa e forse la otterrebbe, insomma? Sì, assolutamente. Ce l'hanno spiegato tutti i giocatori che sono venuti qui in conferenza stampa. Ieri Florenzi diceva che questa squadra può giocare ad occhi chiusi perché sa benissimo come stare in campo, cosa deve fare in campo, e tutti seguono l'allenatore, sia da Buffon che fino ad arrivare a Marchetti, che è l'unico che non ha giocato in questo europeo, ma partendo come terzo portiere è difficile scendere in campo. E Conte ha mantenuto la promessa che aveva fatto ancora prima dell'inizio degli europei, quando disse che avrebbero giocato giocato tutti e 23, ne hanno giocato in 22, speriamo che si fermino a 22, ma sicuramente tutti seguono Antonio Conte con grande abnegazione. Pierluigi, questa fiducia che la Germania spende a piene mani, come la valuti? Da Müller ha cominciato, poi Müller ha detto beh, stavolta non c'è scampo per loro, stamattina leggevo Briga su Repubblica, non abbiamo più la sindrome italiana, urlano nel bosco per farsi passare la paura? Non lo so, so che i tedeschi sono da questo punto di vista i re dell'antiscaravanzia, nel senso che ogni volta che ci affrontano si sentono superiori e quasi sempre questa cosa ci porta molto bene e nonostante le esperienze del passato mi sembra che ci ricadano sempre, quindi da un lato è quasi ammirevole, no? Perché è una forma di proprio di assoluta mancanza di rispetto della scaramanzia, che invece sappiamo che il calcio conta tra l'80 e il 90%, sì. e invece loro se ne fregano altamente. E sul resto sicuramente la compattezza del gruppo nostro è enorme, la qualità loro è altrettanto enorme, se mi passi l'espressione, cioè sono favoriti loro e noi andiamo lì per fare un'altra partita perfetta. Se riusciamo a fare una partita perfetta possiamo mettere in difficoltà, mi sembra abbastanza semplice come ragionamento, non molto diverso secondo me alla situazione che c'era prima del match con la Spagna. Adesso tutti giustamente diciamo che sarà più difficile, sì. Ma diciamo che sarà più difficile perché la Spagna l'abbiamo vista sgonfiarsi, quindi dobbiamo sperare che lo stesso succeda con la Germania. Sulla carta mi sembra abbastanza simile, cioè non mi sembra che la Germania sia così nettamente superiore alla Spagna, o perlomeno la percezione che avevamo della Spagna prima di giocarci. Poi è chiaro che se la Germania passerà il turno convincendo, a quel punto vorrà dire che sarà stata molto più brava della Spagna, sì, per sì, affrontarci. Sì, sì, la Germania comunque... Però siamo lì, andrà, come... Ma andrà affrontata in un modo diverso, magari ne parliamo dopo il traffico, perché sono diversi, giocano in un modo diverso, ovviamente, e quindi servirà qualcosa di differente rispetto a quello che abbiamo visto contro la Spagna. 800240024, sono curioso di sapere anche che cosa state organizzando per sabato sera, gruppi d'ascolto, menu, voglio sapere tutto. Tu cosa fai, Pierluigi? Io sono a Ischia, tra l'altro, a ricevere un premio prestigioso dell'Ordine dei giornalisti, quindi insomma saremo, però la partita si vede, insomma, la vedremo si vede, insieme. A Ischia le televisioni ci sono, sarà un problema. A Ischia le televisioni ci sono, non è un problema. Sì, no, ci sono. Le televisioni. Cose, tra cui anche le televisioni, quindi no, ci divertiremo sicuramente, è chiaro che insomma il protocollo del premio Ischia per quanto riguarda la sera di sabato penso che subirà qualche variazione, perché insomma pensare di farlo in contemporanea con la partita non è neanche pensabile. No, non è una grande idea. Mi viene in mente Luca Bizzarri l'altra sera quando l'abbiamo chiamato durante la partita, che era un matrimonio, dove? In Puglia, mi pare. Sì. Lo so, lo fanno. Sì, succede. Allora, traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo scalato una vetta importante, ma adesso abbiamo l'Everest davanti. Ma ripeto, uniti e con la consapevolezza che siamo una buona squadra, possiamo veramente fare qualcosa di importante. Mister ci sta trasmettendo la sua grinta, quella che c'aveva in campo e soprattutto quella che ora mette da allenatore. Noi lo stiamo seguendo nei minimi dettagli perché ci sta insegnando tanto e noi la grinta che ci sta dando la stiamo mettendo in campo come degli assatanati e cercheremo sempre di portarla fino in fondo. Secondo me l'abbiamo battuti talmente tante volte che adesso si stanno buttando avanti, penso. Ognuno può dire quello che vuole. Io penso soltanto che con il lavoro fa parlare, il campo fa parlare. Tutto quello che succede sui giornali, che dicono i giocatori, non importa. E questi erano Florenzi, Insigne, quello degli assatanati era Insigne ed Immobile nell'ordine. Sempre per Luigi Pardo ovviamente con noi. Un'ultima, andiamo ancora per un'ultima considerazione da Dario Ricci e dal suo ospite a Montpellier. L'Italia è fatta, no? C'è più niente da decidere. Gioca Sturaro con Parolo nel ruolo di De Rossi. sembra questa la scelta. Sembra proprio questa la scelta, caro Carlo. Chiediamo ancora a Antonio Ricotta di Italpress. Antonio, può essere questa la chiave giusta? Perché abbiamo visto uno Sturaro decisamente fuori giri contro l'Irlanda, ma è pure vero che è un giocatore che gioca bene le partite importanti, e quella contava davvero poco, e magari si trova a suo agio quando deve fare poche cose ma fatte bene. Tra l'altro, come regista ha già un po' orchestrato ai tempi del Genoa, quindi tutto sommato potrebbe essere utile lui anche in quel ruolo, nell'aiutare Parolo, comunque nel prestargli il fianco, insomma. Che ne dici? Sì, io penso che sarà Parolo a prendere in tutto e per tutto il ruolo di Daniele De Rossi. Sturaro, come dicevi bene tu, è un interno che comunque può dare il suo contributo, anche se contro l'Irlanda non è riuscito ad entrare in partita. Potrebbe esserci anche un'altra soluzione, che è quella con Florenzi accentrato piuttosto che sulla fascia, e magari l'inserimento di Darmian e De Sciglio sulle fasce, ma alla fine credo che giocherà Parolo al centro e Sturaro e Giaccherini come interni, e credo che sia la soluzione più ovvia. Quindi questa è l'Italia che sembra uscire da Montpellier. Da domani azzurri a Bordeaux, ufficializzata proprio in questi istanti la conferenza stampa di Conte e di Capitan Buffon per le 19:15, caro Carlo. Benissimo, grazie Dario Ricci, grazie a te e al tuo ospite. 800240024, è l'Italia che volete questa? Me lo domando. Tanto c'è chi ha guardato ogni partita in un posto diverso, mi scrive su WhatsApp: con la Germania confermo la regola, la guardo da Londra con mio figlio piccolo Andrea. Benissimo. C'è chi per sabato sera grigliate in campagna tra amici con rito propiziatorio a base di Valpolicella, Corrado. Io sabato me la guarderò in centro a Venezia in un pub, sperando di essere circondato da più tedeschi possibile, scrive Emanuele. Sfiderò a mani nude col petto in fuori. Sì, esatto. Senti, ma è quella giusta l'Italia? Io credo di sia la soluzione più logica, no? Cioè non ci sono grandi ballottaggi. Non è quella più giusta. Poi credo che anche Conte, col senno di poi, Jorginho in questa situazione qui con De Rossi fuori e Thiago Motta infortunato, lo sarebbe portato, sarebbe carte false per avere un giocatore con quelle caratteristiche. Però ha fatto una scelta, nessuno poteva sapere che questa combinazione di infortuni più squalifica avrebbe riguardato il ruolo del playmaker, ma poteva succedere esattamente la stessa cosa tra gli intermedi di centrocampo. Se noi avessimo avuto fuori, che ne so, Giaccherini e Parolo contemporaneamente, avremmo adesso un problema con quelle caratteristiche lì. Quindi certo. Città, tra tutte le soluzioni che non sono chiaramente quelle ottimali, tra tutte le soluzioni mi sembra la più logica, la meno rischiosa, quella che non stravolge il modulo, che non stravolge la difesa, che è il nostro punto di forza, la nostra eccellenza, tenendo lì Bonucci. È chiaro che non è ottimale, insomma, lì in mezzo ci sarà un po' da faticare, soprattutto non c'è un giocatore con le caratteristiche ideali per poter lavorare il ritmo della partita, per certo, poterlo rallentare, certo, per poter gestire il pallone in un certo modo. Sono tutti centrocampisti con caratteristiche abbastanza simili, più abituati a inserirsi che a difendere il possesso del pallone e a ragionare, però insomma è un... In ogni caso sarà una partita di lotta, quindi... Certo, sarà una partita di lotta soprattutto centrocampo. Sì, certo. Già sigillare quel centrocampo per fronteggiare la fantasia dei trequartisti tedeschi, questo credo possa essere il disegno tattico. Quindi mi sta intrigando molto quello che faranno, sono curiosissimo, su quello che faranno i nostri ascoltatori sabato sera. C'è chi? Sabato sera ore 9, concerto di David Gilmour al Circo Massimo, biglietto costato un occhio, speriamo almeno mettano un mega schermo. Poi tra l'altro non è mai facile, perché mettere le prime tre partite, insomma, uno le sa dall'inizio, da dicembre, quindi può tranquillamente fare un po' di pianificazione. Qui gli intrecci e le combinazioni sono chiaramente dettate da quello che succede, quindi sì, quindi anche se progetti di andare a un grande concerto, te lo ritrovi lì alle 9, che devi fare? Biglietto costato un occhio. Ore 18, ritrovo da un amico con girarrosto e quaglie. Se potete dire al mio Bagnino dei Bagni 36 a Sinigaglia di mettere il maxi schermo sulla spiaggia per sabato sera, convincetelo. Oh Bagnino, metti sto maxi schermo. Mi sembra il minimo, ma il Bagnino lo saprà pure lui, cioè, c'è anche un interesse commerciale a mettere, appunto, il maxi schermo. Quindi facciamo i bravi. Bagni 36 a Sinigaglia, maxi schermo, non se ne parla neanche. Michele, buongiorno. Buongiorno. Tesaro Urbino, va anche lei ai bagni 36 di Senigallia, no? No, no, no, no, no. Vado tra Pesaro e Fano io. Che fa sabato sera? Sabato sera con amici. Con amici. Amici e bambini piccoli con la maglia dell'Italia. Con la maglia dell'Italia e una bella babysitter che al momento giusto li tiene sotto controllo. Oppure esatto. Un pallone da far rotolare in giardino che può sempre funzionare. Infatti, con la testa alle vacanze che partirò domenica, quindi... Ah, ma che meraviglia, che meraviglia. Allora, argomento, non so se ne avete già parlato perché non sempre riesco a seguirvi, l'argomento è allenatori, volevo fare una piccola riflessione per quanto riguarda gli allenatori vincenti, sì. Praticamente a parte qualche fuoriclasse come può essere Sacchi o Mourinho, che non hanno un grosso passato da calciatori, vi volevo chiedere se secondo voi è vero che gli allenatori vincenti sono dei centrocampisti con un grande senso di posizionamento nel campo. Guardiola, Conte, Ancelotti, Allegri, Simeone, Ancelotti. Sì, questa è quasi statistica, eh? È quasi sì, statistica. Però... Sono pochissimi, ad esempio, attaccanti. Anche Capello. Pochissimi, no, sicuramente attaccanti. È interessante. È vera, anche se poi, secondo me, da un lato è vera anche la prima parte del discorso, cioè che anche chi non ha giocato ad alti livelli può diventare un grande allenatore, soprattutto nel calcio di oggi, dove la componente della conoscenza tecnica si intreccia con mille altre componenti. E dove il carisma di fatto diventa decisivo nel combinare questi diversi elementi, per cui anche uno che non è stato un grande allenatore può avere un grande carisma, un grande giocatore può avere un grande carisma da allenatore, non è necessario che abbia vinto gli scudetti segnando caterve di gol, certo. Giocando in grandi squadre, lo può avere a prescindere. Detto questo, sì, la teoria è abbastanza interessante, poi delle volte, sai, non è... Mondonico per esempio era un attaccante sregolato, il nostro amico Mondo, poi come allenatore ha avuto invece fatto l'elogio del catenaccio, ci sarà magari anche ascoltando, ma penso confermarlo, quindi non sempre poi c'è una rispondenza tra quello che sei stato da calciatore e quello che sei da allenatore. Certamente in mezzo al campo statisticamente si allena fin da giocatore una certa, no, il cerebro come dicono gli spagnoli, l'aspetto dell'intelligenza, l'aspetto del cervello, magari più che in altri ruoli. Sì. C'è un ascoltatore che scrive, io continuo a leggere cosa fanno, sto sfrucugliando nella vita altrui per capire cosa fanno sabato sera. C'è uno che non si firma, ma scrive: io vado a trovare la moglie di un amico, di un mio amico, che va a vedere la partita al bar. Hai capito? Mai andare a vedere la partita al bar da solo. Mai. Dopo questo messaggio credo che nessuno andrà più al bar. No, ma guarda, stasera ci ho ripensato. Gli ascoltatori. Posso dire una cosa autoreferenziale? Allora, mi è capitato negli ultimi 2-3 giorni di trovare a Milano di sai quelle macchine, non faccio pubblicità, ma insomma sono 3-4 compagnie, sì, di car sharing. Ma hanno tutte radio 24, tutte. Sì, 5 su 5. Sono fatte apposta perché se hanno la radio con solo quella stazione. Ha un'inchiesta, se nell'inchiesta aggiunge quelli del car sharing, secondo me siamo tra il 90 e il 95%. Certo, siamo i più ascoltati dai fruitori di car sharing, che salutiamo tutti con grande affetto, certo. Che ci stanno ascoltando, non possono ascoltare altro. Evaristo, che non è Beccalossi, ma chiama da Udine. Sì. Dica. Salve. Salve professor Zenta. Professore. Come ti chiama? Il tuo amico della Formula 1. Ah, sì. Io Turrini, volevo chiedere, no? Sì, cosa? Che siamo in questa situazione qua di penuria di centrocampisti e tutto. Una statistica, no? Noi portiamo 3 portieri. Io vorrei sapere quante volte ha giocato il terzo portiere in un mondiale, in un europeo. E dico, non basterebbero 2? Così ci portiamo un centrocampista in più. Ma sì, questo può essere un ragionamento, però il portiere è un ruolo talmente delicato e particolare. Sì. Vuoi la squalifica di uno, vuoi l'infortunio dell'altro e che fai? Metti in porta il centrocampista che ti sei portato. Quindi è regola, è quasi assioma, no? Portare 3 portieri, così fanno tutti, Pierluigi. Poi non ricordo a memoria se qualche terzo portiere. No, ma a parte che credo proprio che non si possa, questa cosa praticamente non lo so, confesso ignorante, credo che non si possa portare 2 portieri, credo che sia proprio per regolamento. Ma è per regolamento, infatti. stato sì, sì, ma anche perché magari qualcuno tedesco se lo prenderebbe. Il punto è che chiaramente il portiere non è sostituibile. Cioè, è evidente che al 99% non avrai mai bisogno del terzo portiere. È pure vero che se però capita quell'1%, non è che poi mette in porta Insigne o Bonucci. Cioè, a quel punto vuol dire che hai perso la partita, con tutto il rispetto, nel senso che chiaramente le doti del portiere sono completamente diverse, per cui sono rarissimi i casi in cui per un'espulsione, quando sono esauriti i cambi, c'è qualcuno che va in porta, ma ci va per qualche minuto. Sì. È comunque una soluzione assolutamente non ottimale, quindi è giusto il principio, ma in realtà di fatto non nessuno si prende questo rischio. Poi bisogna poi appunto è previsto dai regolamenti, quindi mi sembra che la discussione si chiuda qui. E noi chiudiamo qui questa prima parte, sentiamo la borsa, poi torniamo. Intanto io continuo a leggere cosa fate sabato sera, me lo state scrivendo tutti. 800240024 numero verde, 349-238-6666, questi i nostri contatti. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Come sai, Pierluigi, come ti ho detto, c'è chi doveva andare al bar, ma adesso ha deciso che sta a casa con la moglie. Mi scrivono sempre via WhatsApp. Esatto, sì. Adesso c'è un impennato, c'è un crollo. C'è un crollo di fatturato dei bar. Sì, no, però ce n'è un altro che dice che va a trovare la moglie di un amico che va al bar, e va al bar anche la moglie di questo che va a trovare la moglie dell'amico. Vabbè, allora siamo questione dei maniaci. Sacco di gente che se la guarda in barca invece. A proposito, ci hanno pure invitati. A proposito? In barca sul lago di Iseo, siamo invitati. Io so Ischia, adesso lo devo dire. Sei, non è facilissimo. Però non è una brutta cosa. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Allora, solo una rispostina a Lev, come si chiama l'allenatore della Germania. A lui piace il caffè espresso caldo e pensa che sarà buono sabato, giusto? Sì. Forse, ma lui non sa che in Italia c'è la mazza caffè dopo il caffè. Ah. E vediamo chi beve l'amaro alla fine. Sì. Vince chi beve l'amaro, vince chi funziona così. Speriamo, incrociamo le dita, siamo zitti come sempre davanti alla loro spocchiosità. Io mi verrò la mia partita con la mia maglia retro dell'Italia 82 sul divano. Però quella retro dell'Italia 82 col colletto con il bordo tricolore indimenticabile. Speriamo Antonio, non ci resta che attendere. Ma sai Pierluigi cosa manca tanto in questa vigilia rispetto alle precedenti edizioni di Europei e Mondiali? Due cose. Uno, come ne abbiamo parlato molte volte, i grandi tormentoni, e gioca quello e gioca quell'altro, e Del Piero e Totti e Vialli e Vieri e Rossi eccetera. Primo questo, non c'è moltissimo da discutere. La seconda cosa è il partito degli anti italiani, che era numerosissimo, ti ricordi, nel 94, che comunque ha avuto una buona adesione anche in altre edizioni di mondiali e di europei. Adesso mi sembra veramente sparuto, ed è guidato da Marco Travaglio, come avrai letto. Ha detto che no, io guardo l'ultima Italia, era quella di Berzot per me. Poi guardo al commissario tecnico, Vicini non mi piaceva, Sacchi non mi piaceva, Conte non mi piace, quindi ti va contro. Il partito degli anti-italiani è però molto ristretto in questa edizione, noti anche tu? Sono perso Pardo. Ma sto qua, come mi hai perso? Sto qui fermo. Ah. L'hai perso? No. Perché... Non ce l'ho con te, sono i misteri della telefonia. Io ogni giorno imparo delle cose, imparo che uno può rimanere fermo e improvvisamente non non mi sentono più telefoni di casa che si sentono peggio di telefoni cellulari, vabbè, insomma, una serie di cose. Detto questo, no, io chiaramente rispetto Travaglio, perché rispetto tutti e qualsiasi opinione, poi soprattutto le opinioni legate al tifo non sono sindacabili, no? È come tutti i discorsi che facciamo anche su Cufi, ognuno segue il cuore, non è che puoi andare a Travaglio e dire adesso tu devi tifare Italia, sei un ordine, ci mancherebbe, ognuno fa quello che vuole. Detto questo, non so come dire. No, però il partito degli anti è particolarmente sparuto, notavo in questa edizione, cioè non ci sono grandi movimenti contrari, ma non lo noto anche dagli sms, dalle telefonate, per quel che possiamo dire, quindi mi sembra una nazionale in grado di così di coagulare. Perché, guarda, allora, ti dico la verità, tifare contro l'Italia mi sembra proprio una percezione, no? Nel senso che l'Italia è un sentimento prima di tutto, quindi tifare contro l'Italia può essere una cosa che faccio fatica a capire, che farei veramente fatica a capire, mi farebbe anche un po' incazzare se un mio amico mi dicesse una roba del genere. Che poi ci possa essere una nazionale più simpatica, una nazionale meno simpatica, questo è fisiologico. Per dirti, io nel 2006, una delle pagine più belle è stata la vittoria contro l'Australia, io però rimango amico di Hiddink e chiaramente ho goduto come un riccio quando abbiamo, però insomma, quando poi ho incontrato Hiddink in conferenza stampa, un po' mi è dispiaciuto per lui. Detto questo, ero contento di aver passato il turno. Ci possono essere situazioni di questo tipo, no? Ci possono essere, per esempio, simpatia per un giocatore che magari non è stato convocato, piuttosto che antipatia per... Questo ci può stare come ragionamento, però poi alla fine l'Italia è l'Italia, quindi secondo me poi tutte queste robe così sofisticate, che poi secondo me riguardano soprattutto alla fine gli addetti ai lavori, perché un tifoso normale non è che conosce Hiddink, no? amico di famiglia, di dopo faccio per dirti, e quindi poi alla fine dovrebbe rimanere il sentimento prevalente, che è fare normale come si fa in tutti i posti normali, non ti dico in Islanda dove, ma poi ne parliamo, dove c'è una richiesta di magliette che costringe la RA produttrice italiana di Parma a lavorare giorno e notte per produrre magliette dell'Islanda a rotta di collo, ma maggior numero di richieste pensa in Scozia, credo sia un sentimento un po' antibritannico, però magari mi sbaglio. Ah, beh, certo, cioè, beh, visto anche i calciatori gallesi come hanno festeggiato la sconfitta dell'Inghilterra. No, ma gli è spiaciuto un casino, gli è dispiaciuto. Gli è dispiaciuto un casino. Quello stato fra la depressione e la noia. Esatto. Andrea D'Amico, buongiorno, che piacere. Buongiorno, ero estasiato da queste dove internazioni. Sei? Sono a casa adesso che sto ascoltando e sto parlando con voi. Ma a sono Custoza? Sì, con la macchina accesa, pronto a partire per qualsiasi direzione. No, ancora tranquillo, dai, calcio mercato tranquillo. Sì, tranquillo, che però si prepara a diventarlo un po' di meno. Andrea, ad esempio, ieri parlavamo della vicenda Higuain, il fratello di Higuain, il suo procuratore Nicolas, ieri è intervenuto di nuovo alla radio spagnola, confermando tutto. Questa squadra non è all'altezza del Pipita dal punto di vista tecnico, quindi non rinnoviamo, ci sono solo 5 o 6 squadre che possono essere all'altezza del mio grande fratellone. Di questa storia ha parlato anche De Giovanni, sentiamo cosa ha detto. Direi che è una commedia, un gioco delle parti in cui ognuno tristemente fa la parte sua. La società fa bene a non rispondere in questo momento, ma farebbe ancora meglio a dare conforto a quello che è un programma stabile, sereno, non assurdo chiaramente, perché io sento parlare per esempio di Witzel, salvo clamorose smentite, mi sembra fuori dalla portata dei parametri economici che la società impone ai suoi acquisti. Però è altrettanto preoccupante che gente come Versalico, Vesino, Zielinski rifiuti il Napoli. Quindi anche gli intellettuali si preoccupano della vicenda. Andrea, secondo te come va a finire? Valgono tutte e due le considerazioni, quella su Higuain e il fatto che molti giocatori in effetti hanno rifiutato il Napoli in questa fino ad ora. Ma guarda, queste dichiarazioni fanno parte, come diceva appunto questo signore di Bressanone, fanno parte del ruolo, del gioco, insomma, delle parti, il gioco delle parti. Però è chiaro che comunque creano anche un disturbo sul piano del mercato, perché tanti giocatori magari possono essere magari fuorviati e così un po' disorientati da queste dichiarazioni su quello che può essere il progetto tecnico del Napoli. e che secondo me ha avuto una, si è qualificato ormai tra le squadre più competitive del panorama quest'anno. Certo. Io ero convinto che potesse arrivare al colpo grosso, però l'ha mancato, ma rimane in realtà importante, ecco. E, bah, poi dopo, per quanto riguarda la vicenda di Higuaín, è chiaro che questo è un segnale preciso, ci sono dei contratti e il Napoli, secondo me, a salvo di, a scanso di pazzie di qualche squadra già che sia disposta a pagare la clausola quest'anno, cercherà di andare avanti e magari di venderlo prima della scadenza del contratto, ovviamente. Certo, certo. Tempo ce n'è fino alla fino al 2018, data della scadenza del contratto di Gonzalo Higuaín. Rimane un mistero comunque questo, questa, questo discreto numero di rifiuti del Napoli, che ormai è una grande realtà europea, io torno a ripetere. Ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Luigi, io conosco bene il tuo amore per Napoli, che è anche il mio. C'è chi scrive: hanno rifiutato Napoli, non il Napoli, è diverso. Sì, posso dire, io ieri sera, ieri alle 3.25, mentre eravamo più collegati, ho sentito la telefonata di un ascoltatore, che è da rispettabile, legittima, che diceva: a Napoli non vanno perché non vogliono rapinare. Allora, io, francamente, siccome ricordo Icardi rapinato una sera dopo una partita dell'Inter, mi ricordo Vieri al quale hanno fregato la macchina a Milano in maniera abbastanza ridicola, e anche la mia posta cinquecentina, chissà dov'è, ma me l'hanno fregata sotto casa. Francamente credo che ci sia un po' di letteratura in tutto questo, poi nessuno ovviamente smentisce e può negare che Napoli sia una città che ha i suoi problemi e che i giocatori del Napoli sono rimasti spesso coinvolti. Però ecco, questa telefonata, ripeto, legittima, perché poi il parere di chiunque deve essere rispettato, però in qualche modo racconta, secondo me, di un pregiudizio almeno parzialmente inesatto, nel senso che poi alla fine non è che le rapine ai calciatori avvengano soltanto a Napoli. E probabilmente però un po' di questa immagine finisce in qualche caso, soprattutto per chi magari è lontano dall'Italia, a non scegliere questa soluzione. Altri si innamorano, perché per esempio Mertens mi risulta che sia un giocatore particolarmente affezionato, Gaglion sta rinnovando, Hamsik al di là. Ma io non credo sia una questione ambientale, guarda, posso dirti. Ma no, non credo anch'io. Napoli, e questo glielo anche ad Andrea, è una società che dal punto di vista delle trattative è abbastanza complessa, perché c'è la questione dei diritti d'immagine che è particolarmente cara al presidente De Laurentiis, che si sarà fatto i suoi conti ed evidentemente alla fine i conti torneranno, però magari in qualche circostanza può essere un qualcosa che rallenta o no? Ma guarda, di fatto è successo così in questi ultimi anni, anche se devo dire che andiamo a vedere poi quanti sono in realtà i giocatori che poi sfruttano personalmente la propria immagine nel mercato italiano, e vediamo che sono pochissimi. Certo. Per cui alla fine, una volta raggiunto la cifra complessiva, non è che ti vai a pregiudicare contratti milionari che possono provenire da sponsor, e quindi invece di prenderli tu si riprende la società. Detto questo, mi sembra che tutto questo sia abbastanza irrisorio una volta arrivato quello che è il contratto che vuoi sottoscrivere. E per quanto riguarda le altre considerazioni negative, bisognerebbe valutare di caso in caso, probabilmente, perché chi dice di no ha delle alternative in serbo, magari ritiene più lusinghiere dal punto di vista economico o altrimenti sportivo, perché altrimenti non mi spiego, insomma. Certo, è una realtà professionale, poi i rischi ci sono ovunque, come giustamente dicevate voi, ormai il mondo si è globalizzato sia nelle cose positive che anche nei rischi. Certo, guardiamo Andrea, quello che è successo anche a Istanbul ieri, è incredibile, eppure Istanbul è una capitale europea dove i giocatori stanno benissimo. Ora, francamente, il rischio c'è ovunque, da Parigi a Istanbul a Napoli, e il mondo è diventato uno. Certo, Andrea. Allora, oggi sono state le prime parole di Montella, da allenatore del Milan intercettato, ha detto queste cose. Adesso bisogna mettersi seduto, appunto, in settimana iniziamo a lavorare seriamente. Con tutte le componenti, naturalmente Milan deve avere l'ambizione e l'obiettivo di tornare grande a livello europeo, non soltanto a livello italiano, quindi il lavoro da fare ce n'è, la sfida è ardua e so cosa mi aspetta, so cosa devo fare e cosa devo inseguire, quindi sono pienamente consapevole. Una cosa è certa, Montella avrà bisogno di un Milan totalmente, per il suo gioco, di un Milan totalmente diverso rispetto a quello attuale, a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione. Avrà bisogno di molta qualità, di molta fantasia a centrocampo, infatti il Milan dovrà cercarla, quindi non è esattamente l'allenatore che puoi, cui puoi dare in mano la squadra dell'anno passato, o mi sbaglio, Andrea? Sì, ci occorre un progetto nuovo, anche se non dimentichiamo che il Milan l'anno scorso comunque ha fatto investimenti importanti, ha speso molto sul mercato. E poi è chiaro che quando spendi molto non hai la sicurezza di avere un rendimento adeguato. Però poi il progetto si è rivelato non corrispondente alle aspettative, quindi è stata un'annata ahimè deludente. Montella dovrà cercare di creare un suo progetto, una sua squadra, dando qualità a centrocampo e svoltendo quelli che sono dei giocatori che a mio avviso non sono da Milan, perché quello che ha pagato questa società è che c'ha comunque tanti giocatori, ma per essere un giocatore del Milan non occorre soltanto essere un buon giocatore coi piedi, ma bisogna essere nella testa e nel cuore. Per chiudere, ti aspetti un Inter molto aggressiva sul mercato? Ieri ha parlato un nuovo proprietario, ha parlato apertamente di un Inter al top. Sì, mi aspetto che i cinesi investano molto. Investire molto vuol dire non soltanto spendere tanti soldi, ma spenderli bene. E penso che dovremmo sempre più abituarci a questa Cina che entra nel calcio italiano. Mi aspetto probabilmente anche delle sorprese anche sul fronte dell'azionariato del Milan, perché non vedo una partita ancora così definitiva, però di sicuro io ho degli incontri anche la prossima settimana con un gruppo di cinesi che vivono il calcio sempre più non solo come business ma come finestra sul resto del mondo, e quindi sono molto curioso di vedere quale sarà il nuovo progetto del Milan. Grazie Andrea. Grazie. Un abbraccio a tutti voi. Ciao. Pierluigi, Inter e Milan, dunque, con l'aeroplanino, dicevamo, servirà un Milan diverso, e quindi bisogna vedere chi potrà comprare i giocatori, chi metterà il grano. E per quanto riguarda l'Inter, invece, grandi progetti, grandi idee, quindi tutti i tifosi dell'Inter sono nella finestra che fremono nell'attesa che inizi il mercato. Sì, mi sembra che insomma siano per tutte e due, l'Inter certamente più avanti, ma per tutte e due ci siano progetti, ci sia una ripartenza, ma che questa ripartenza debba passare attraverso capitali stranieri, l'abbiamo detto mille volte, può non essere il massimo della vita, può non essere particolarmente romantico o letterario, ma insomma l'importante è che si vada avanti. È un mondo globale, è un mondo dove un signore può comprare una società di calcio o qualsiasi altro bene, qualsiasi altro asset dall'altra parte del mondo, quindi yeah. È un qualcosa che non si può fermare il vento con le mani, è un altro discorso, quindi va accettata, e secondo me non è neanche poi così tanto una tragedia, perché insomma è chiaro che la forza del calcio italiano è una forza che si basa sulla tradizione soprattutto di alcuni club e sul fatto che da noi questo sport si gioca ai massimi livelli da 100 anni. Ma poi quindi, io credo che al tifoso interessi avere una squadra forte, poi certo, è chiaro, se ha il presidente al primo italiano, grande acquisto o al primo grande titolo, sai che cosa ne frega uno se il presidente si chiama si chiama Ming in maniera inconciabile e non Brambilla, non Brambilla. Quindi questo è normale, e anzi può essere un'occasione, può essere un volano per far sì che questi due grandi club milanesi possano essere sempre più internazionali e quindi possono diventare sempre più competitivi a livello mondiale. Ma poi il calcio italiano ne ha bisogno, io resto convinto del fatto che abbia bisogno di una Milano competitiva il calcio italiano. Maurizio, poi salutiamo Pardo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Dica. Allora, sentivo dire che ci sono pochi anti che sono contro la nazionale italiana. Sì, così è sensazione. Lei è anti. Esatto. Da almeno 10 anni, da quando ha vinto il mondiale del 2006, e il giorno dopo sui giornali c'era scritto che aveva vinto l'Italia Juve e la Juve in particolare. E poi anche perché in porta c'è un giocatore come Buffon che qualche anno fa ha tirato fuori il pallone dalla porta che era dentro di un metro e dopo va in giro a parlare di sportività. Ok, basta o ci sono altri motivi comunque? Ah, ce ne sono degli altri. No, vabbè, mi sembra evidente, è facile racchiudere tutti questi motivi negli interessi di partito che prevalgono. Però sulla... credo che si fa una valutazione di carattere morale o moralistico e a Buffon si rimprovera quella dichiarazione lì, si va completamente fuori strada. Nel senso che al limite si può dire, ma sfido chiunque a dire che avrebbe detto all'arbitro che era gol in una partita così importante, ma insomma, al limite si può dire che di fronte a un pallone di cui un portiere se ne accorge, che un portiere si accorge che è entrato, uno può andare dall'arbitro, ma credo che sia un atteggiamento che soprattutto in una situazione di quel tipo, una partita così importante, non avrebbe fatto nessuno. Io no, non avrei parlando... fatto proprio io neanche. Se il nostro ascoltatore è così, io assolutamente no. Ti faccio i complimenti e ci credo, ma non credo che la maggioranza delle persone importa in una partita così importante col pallone che entra di qualche centimetro sarebbe andato dall'arbitro. No, aspetta, guarda, forse era gol, ma non scherziamo. Poi abbiamo capito, prevalgono gli interessi di partito che sono comunque legittimi. Ci sentiamo domani, Pier. Un abbraccio. Sì, no, pronto? Ti abbraccio. Ciao, ciao. GR. Benvenuto. Questo è Micasa. Tutti convocati. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. State ascoltando un programma offerto da... Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the playmakers. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Allora, vi faccio sentire subito Mattia De Sciglio, che ha parlato poco fa nel ritiro della Nazionale. Stiamo vedendo appunto molte sedute di video per preparare al meglio questa partita, come abbiamo fatto con la Spagna, poi per vedere bene come andarli a prendere, come andarli a pressare o come sistemarci, quando, come aspettarli in base alle situazioni e poi anche in fase di possesso nostro le giocate migliori da fare. Sicuramente troveremo il modo, penso, per metterli in difficoltà come contro la Spagna. Due dei migliori, De Sciglio l'altra sera contro la Spagna, senza ombra di dubbio. Francesco, buongiorno. Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie della convocazione. Ma il mio pensiero è un po' questo. Allora, se si parla ancora di Buffon, cioè come parlare di Maradona ancora, della mano de Dios, passo in secondo piano la grandezza del personaggio, del portiere, queste cose che veramente non capisco, anche perché ricordo un particolare: quando successe la famosa vicenda di Montari, sì, ci furono due episodi precedenti nello stesso campionato che Buffon raccontò, non so se ne sei al corrente. Non ricordo esattamente, anche perché mi sembra che sia passato un po' di tempo. Ricordo benissimo, allora, in una partita con l'Udinese, pallone che viene deviato da Buffon, l'arbitro gli chiede: l'hai deviata tu? Buffon gli dice: sì, l'ho deviata io. L'arbitro gli stringe la mano. Qualche settimana dopo, stessa situazione con il Siena, l'arbitro chiede a Buffon: l'hai toccata? Buffon dice: no, non l'ho toccata. L'arbitro gli va a concedere il calcio d'angolo, e alla fine della partita Buffon se la prese molto, perché disse: a me un calcio d'angolo non cambia la vita, però se vuoi la mia collaborazione, allora o ti fidi di me o non ti fidi. Sì, posto che non è sempre così necessario chiedere la collaborazione dei giocatori, poi possiamo anche dire che un conto è un corner, un conto è il gol scudetto, però rimango della mia idea. Nessuno al mondo avrebbe preso quel pallone, sarebbe andato dall'arbitro per dirgli: guarda che è entrato. Poi Buffon ha anche detto: ma sì, ma non rivaghiamo questa storia. Ha anche detto: non mi sono accorto se il pallone era entrato o no, non posso dirlo. E si può anche credergli, perché non, su una palla che vola a mezz'aria, sai, tu pensi a prenderla, poi, poi magari lo sa perfettamente, ha detto una bugia, però il discorso è che insomma, in quel caso nessuno al mondo, credo, avrebbe fermato la palla e sarebbe andato dall'arbitro e detto lo scudetto. Siamo sinceri, proviamo a essere sinceri. E magari non rivaghiamo queste storie qui, sennò facciamo notte e ci divertiamo anche abbastanza poco, secondo me. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Velocemente, sempre sul tema e al di là poi dei singoli episodi che in effetti sono stucchevoli. La mia personalissima esperienza, io sono del 64, sempre tifato Milan, direi convinto. Sì. Quando c'era la Juve trapiantata in nazionale, sto parlando degli anni 70-80, tra pattoni, eccetera, sì, io non riuscivo ad amare la nazionale, onestamente, perché ci vedevo troppo una trasposizione della Juve lì. Blocco, quindi, il famoso blocco Juventus. Blocco Juventus, e avevo io un blocco interiore a simpatizzare per l'Italia, perché ci vedevo troppo la Juve riflessa. Poi, con l'andare del tempo, devo dire che è una sensazione che si è attenuata, e ho gioito immensamente quando abbiamo vinto tutti i nostri mondiali, forse un po' meno l'82 perché l'impronta c'era ancora. Mm. Quindi alla fine io credo che sia un discorso di maturità, no? Cioè nel senso, sei giovane, hai ancora tutti i condizionamenti della tua squadra di club e quindi ci vedi troppo l'impronta della squadra di club avversaria vincente. Sì. Quando poi maturi, insomma, voglio dire, certe cose dovrebbero venire meno. Forse nel caso mio ha giovato anche il fatto che il Milan faccia così schifo ultimamente, che non c'è più alcun tipo di seria rivalità con la Juventus. Sì, in questo però momento un po' lontano il Milan, questo sì, momento un po' lontano il Milan. No, ma insomma, quando mettono la maglia della nazionale, insomma, sì, mettono la maglia della nazionale, sì, punto e basta, non è che... Cioè, allora questa stregua le potrebbe risultare molto difficile di fare anche questa nazionale, che ha una forte impronta juventina, da Conte all'intero blocco difensivo... Insomma, c'è molta Juventus dentro a questa nazionale. Oh, che meraviglia! Mister Paolo Condò, dominatore degli schermi di Sky in questo europeo. Ciao Paolo. Ciao Carlo, come stai? Bene, tu? Tutto bene. Come si sta sulla barca? Se venisse un po' di bel tempo a Parigi, così per sbaglio, costi sarebbe un po' meglio, ma la barca è una figata. La barca è una figata, Che te lo devo dire a fare? Se vuoi ti regalo un po' di afa milanese, che oggi sembra di essere a Saigon. Non... Facciamo un mix, perché qui veramente siamo passati dall'ironia e al sarcasmo all'indignazione. Anche oggi fa un freddo cane, vabbè, comunque. Paolo, sarebbe peggio, dimmi. Ti sottopongo qualche argomento, qualche storia di questo europeo, a partire ovviamente dal contismo ai massimi livelli. Senti Oriali. Noi non giochiamo in 11, noi giochiamo in 12 con lui. Si è creato questo gruppo fin dall'inizio con delle scelte mirate che è diventato squadra. Di sicuro mi dispiacerà, perché comunque con lui ho trascorso 2 anni veramente belli, piacevoli, dove abbiamo avuto l'opportunità poi di conoscerci anche profondamente e dove comunque siamo cresciuti professionalmente insieme, quindi lui lascerà una traccia importante anche su di me. Questo Leo Oriali, che di storie ne ha vissute tante, di allenatori ne ha affiancati moltissimi. Sarà difficile dire addio a Conte dopo questo europeo? Beh, naturalmente i risultati che sta portando e la maniera in cui questi risultati stanno arrivando ci hanno entusiasmato, ci hanno esaltato. Ti devo dire che le stesse parole su Conte io le avevo sentite dire nel 2000 da alcuni giocatori di altri club diversi dalla Juventus nell'Europeo del 2000, che in quell'occasione si veniva da una situazione molto polemica, che era Perugia ovviamente, quindi molte parole erano corse e molte asce di guerra erano state disseppellite. E invece proprio in quel periodo ricordo i milanisti, per esempio, ma anche i giocatori della Lazio, che erano quelli che più erano, cioè con i quali più erano scattate le polemiche, che avevano detto è stato un elemento chiave, fu bellissimo quell'europeo per l'Italia, è stato un elemento chiave non soltanto in campo, lì aveva segnato il primo gol, quella che rovesciata alla Turchia, ma anche fuori dal campo abbiamo scoperto un amico, ecco. Quindi non mi sorprendono queste parole di Oriali. Questa la sai. Thank you. Tutti pazzi per l'Islanda, Paolo Condò. No, raccontavo prima che lo sponsor tecnico è RA, non facciamo pubblicità, ma insomma, è cronaca, è scritto su tutti i giornali, compreso Sole 24 Ore di oggi. Azienda di Parma ha dovuto istituire i turni di notte per produrre magliette dell'Islanda. Le richieste superano del 1000% la produzione. Ha colpito l'Islanda. Colpisce ancora. Sì, colpisce ancora. Beh, io ieri sera ho detto, ma è assolutamente sincero, mi è venuta voglia di andare in vacanza in Islanda. A molti, anche a Pardo, sai. Ma io non ci sono mai stato. Abbiamo avuto la stessa pulsione. Non ci sono mai stato e mi è venuta voglia di andare a vedere quel paese, ma perché al di là della squadra che gioca bene, che secondo me è una sorpresa relativa, perché giocano tutti in campionati dove si gioca calcio, a partire dalla Premier, uh-huh, i giocatori dell'Islanda, e quindi non li chiamo il Leicester degli europei, perché non sono il Leicester. Il Leicester, a parte un paio di giocatori, erano quasi degli sconosciuti all'inizio dello scorso campionato, mentre invece questi dell'Islanda li abbiamo sentiti nominare nelle coppe europee, sì, o quando guardiamo la Premier in TV. Ecco, però al di là di questo, anche i tifosi, ti devo dire, i tifosi sono piacevolissimi. Vedi, queste famiglie sono tutti biondo, tendente al bianco, sì, quasi, sì, no? Quel, sì, biondo, quel biondo incredibile che fa sembrare dei meridionali gli svedesi. Ecco, sono dei bambini educati, simpatici. È scoccato l'amore, direi, fra l'Europa e l'Islanda. Sì, ma è una storia incredibile, anche perché 329.000 abitanti, se non ricordo male, è una cittadina di piccole dimensioni, no? Certo, rapportata, certo, al nostro territorio. Magari il vice allenatore, il vice CT è il tuo dentista, o il centravanti è il tuo vicino di casa, quindi è una piccola comunità, ed è stranissimo tutto questo. Sì, è una storia, ma succedono di queste storie. Come si dice, ha bucato lo schermo, no? Sì. Poi è chiaro che anche l'H finale è divertente, è piacevole, ti porta un entusiasmo. Insomma, credo che a parte no, cioè, non lo so quanti abbiano tifato Islanda e quanti Inghilterra nei minuti finali, perché in genere anche l'Inghilterra catena in noi una forte appartenenza, un forte affetto. Hanno inventato il calcio, sì, dobbiamo tutto praticamente agli inglesi, tutto il nostro divertimento, però credo che una percentuale superiore al 50% abbia tifato Islanda io credo anche qualcosa di più, va Paolo. Sì, credo anche io. Vado prudente. Vai prudente. Un'altra cosa, sì, sindaco di Parigi che premia i tifosi irlandesi, nordirlandesi, come tifoseria più corretta. Meravigliosa questa tifoseria di Euro 2016. Incontrano per strada, ad esempio, delle suore e si mettono a intonare il Padre Nostro. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Oppure puliscono le strade e cantano ancora. Clean up for the boys in green, clean up for the boys in green. Sono meravigliosi, eh. No, la cosa strana, se alla fine della prima settimana di europeo, con quello che era successo, sì, con alcune tifoserie, ecco, mi fossi addormentato e mi fossi risvegliato ieri a vedere il tabellone, a vedere chi è rimasto e chi è uscito, io ti dicevo, forte della mia impronta italiana e quindi vedo complotti dappertutto, ti dicevo, hanno mandato qualche arbitraggio mirato per mandare a casa i russi, gli inglesi, i croati. Quelli che hanno combinato casini, e invece se tu vai a vedere le partite non c'è stato nulla, è stata proprio una congiunzione strana, nulla di arbitrale, voglio dire, non c'è nessun disegno. Esatto, si sono spinti fuori da solo, però è vero, sono rimaste le tifoserie più garbate, piacevoli e familiste, diciamo, ecco, e sono andate via le orde di fight club, guerrieri e così via. L'ultima considerazione ti rubo, Paolo, non riguarda l'europeo, ma riguarda la grande delusione argentina con Leo Messi, che ora voglio risentire dire addio alla nazionale, poi capire se sarà vero o no. que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. La maledizione albiceleste ha colpito ancora Paolo Condò. Sì, io penso che lui, penso e spero che Leo torni su questa sua decisione, che ci riprovi almeno fra due anni al mondiale, naturalmente, perché un mondiale senza il miglior giocatore del mondo sarebbe una contraddizione in termini. Certo. Però credo che non sia soltanto una questione di maledizione, naturalmente abbiamo fatto tutti dei ragionamenti su quello che continua a succedere a questa squadra. Ecco, il Messi della nazionale, pur non giocando male, è diverso e molto meno decisivo rispetto al Barcellona. Io mi sono fatto un'idea abbastanza precisa ormai, abbastanza decisa, e cioè che probabilmente lui, non so se fa ancora in tempo, probabilmente lui avrebbe dovuto a un certo punto cambiare club, nel senso che lui, essendo cresciuto dai 13 anni fino a oggi nel Barcellona, in questi anni ha sempre giocato lo stesso tipo di calcio, lo stesso tipo di modulo, è diventato un fenomeno all'interno di questo modulo. Però quando le cose cambiano, perché per forza di cose ti cambiano i compagni attorno, pur essendo molto bravi anche quelli dell'Argentina, mica sono scarsi, no, non mica la situazione di alla Ibrahimovic. Ecco, però il dover cambiare, il dover fare qualche cosa di diverso, oppure il dover costringere i CT a replicare il più possibile, non è stato questo il caso, ma in passato è accaduto, replicare il più possibile l'ecosistema tattico del Barcellona per permettere al miglior giocatore del mondo di esprimersi al meglio, secondo me alla fine questa è stata una forzatura e a lui manca probabilmente la capacità di elaborare in tempo reale delle cose diverse, cose che invece ha Ronaldo, che è inferiore, certo, a lui. Certo. Ma avendo giocato prima lo Sporting Lisbona, poi il Manchester United, poi il Real Madrid, conosce diversi sistemi di gioco e sa adattarsi, vedremo stasera se la cosa lo porterà addirittura in semifinale, ma sa adattarsi a quello che ti propone il calcio delle nazionali, che è diverso da quello. Guarda, è la stessa idea che abbiamo espresso io e Pardo non più tardi di tre giorni fa. Dovrebbe allora provare, a tutti noi piacerebbe vedere Messi in un contesto diverso, sì, ma non per sminuire il Barcellona. Certo, proprio per vedere. Ormai ha vinto abbastanza Barcellona. Barcellona. Che lasci lì Neymar e Suarez e vada a giocare in Inghilterra, in Italia, lo accogliamo a braccia aperte, ovviamente. Facciamo anche un po' di colletta magari. Perché... Ma guarda, crea l'hashtag Messi, vieni in Italia e vincerai il mondiale. Dai, sì, facciamolo. Magari lo convinciamo. Facciamolo. Grazie Paolo, buon lavoro. Ciao Carlo, buona giornata. Ciao, ti vedo dopo su Sky. Grazie Paolo Condò. 7:30 sono lì. So ciao. Perfettamente, ciao. A più tardi Paolo Condò. Paolo invece da Cremona, buongiorno. Buongiorno a tutti, voglio fare un piccolo passaggio indietro per quanto si è detto su Buffon, e penso che come al solito il problema dell'Italia siano gli italiani, perché finché non vedo uno stop per andare a fermare l'arbitro dicendo ho fatto cappallo da rigore, non penso nient'altro. Sì. Però voglio lanciare un'idea che forse qualcuno ha già detto, io noto in questi europei che quello che sta contando più di tutti sia la squadra. Che è la stessa cosa che mi ha colpito nella finale Argentina-Cile, ha vinto probabilmente la squadra, non ha vinto i giocatori, anche lo stesso Portogallo, mi sembra che Cristiano Ronaldo faccia parte di una squadra, non è emergente, forse non brillantissima fin qui. Non è brillantissimo, per cui il Portogallo è andato avanti come squadra, non come singoli giocatori, che è quello che sta facendo l'Italia, sta facendo l'Islanda e altre un po' meno nazioni. La Francia che infatti è una di quelle che convince meno rispetto ad altre squadre. Voglio lanciare questa provocazione. No, ma non è una provocazione, semplicemente c'è una grande organizzazione, a questo si vede, insomma, Germania, Italia, la stessa Islanda, sono tutte, il Galles, sono tutte squadre estremamente ben allenate ed estremamente organizzate, quindi non è affatto una provocazione. Io sinceramente ripeto, un'Italia a livello di quella vista nel primo tempo contro la Spagna non la ricordavo, proprio dal punto di vista della, della capacità di seguire in maniera precisa, meravigliosa e così applicata lo spartito che Conte ha disegnato. Sono molto curioso di vederla con la Germania, anche perché servirà una partita ancor più perfetta se possibile, ma servirà una partita anche diversa rispetto a quella che abbiamo visto contro la Spagna, perché la Germania ha caratteristiche diverse. Saluto e ringrazio Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Ciao, come va? Ciao, benissimo, tu? Tutto bene, tutto bene. Anche Wimbledon ha le sue storie da raccontare. Mi ha colpito molto. Ha colpito molto gli inglesi, ha colpito molto tutti questo match di ieri con Willis, con Federer e questo Marcus Willis, che è un insegnante di tennis embedded, squatrinato, che si è trovato, che a un certo punto ha detto vabbè, inseguo il sogno, provo. Beh, ma guarda, ora è chiaro che qui siamo veramente una cosa tanto eclatante, il numero dell'avversario, 770 del mondo, il fatto che ci sia questa storia di lui che voleva fare il maestro a Filadelfia, poi ha incontrato la sua donna del cuore che gli ha fatto cambiare idea, il fatto che poi giocava con Federer, poi c'è questo record straordinario che nessuno forse batterà mai, lui ha superato più partite di tutti quanti, perché ha vinto 3 partite di prequalificazioni, 3 di qualificazioni, 1 in tabellone principale, quindi sono già 7 partite. Ecco, però come si vince soltanto se vai in finale, se vinci un titolo dello Slam. Però quello che volevo far notare io è che in realtà queste storie sono il sale stesso di questo sport, perché ce ne sono state tante altre in passato. Cioè, non ci dimentichiamo che uno come Agassi, è vero che era Agassi, ma era completamente sparito dal tennis, cioè sì, è il record più clamoroso. La Sharapova, dopo essersi rotta la spalla, era sparita dal tennis. Io andai a fare, quando ancora ero inviato dalla Gazzetta ed ero giovane, perché andai a fare il suo ritorno in Ungheria. Non sono storie, sono storie che ci insegnano quanto invece ci sia pochissima in realtà distanza fra un giocatore di tennis forte, perché qui stiamo parlando di un giocatore forte, e un atleta però che fa questa attività. Questo era un giocatore grasso, sì. Ha fatto vedere delle immagini in televisione di uno che beveva la Coca-Cola ai cambi campo, che mangiava un panino, cioè mangiava delle cose schifosissime. Non si può, anche se è un grande talento. Oggi Evans, che è un altro giocatore di grande talento inglese, che poi giocherà curiosamente proprio contro Federer, che è veramente un grande talento, anche lui si è lasciato andare, anche lui è un giocatore che va alto e basso. Dimitrov, che sta giocando in questo momento, è un altro giocatore di grandissime qualità che però si è perso. Cioè il limite fra un giocatore professionista serio e un buon giocatore non è poi così lontano, capisci? Questo sì, io vorrei dire. Sì, può essere lontano dal punto di vista fisico, mi dici, perché nello sport di oggi, non solo nel tennis, in qualunque tipo di sport, se non sei un atleta non vai da nessuna parte. Cioè, non esiste più. La racchetta, le superfici, le corde, le scarpe hanno molto, molto livellato il livello. Cioè, capisci? C'è a un certo punto, se tu sei forte, già perché sai giocare a tennis, hai un po' di talento, e a quel punto, e sei un buon atleta, con questi attrezzi di oggi tu sei competitivo. Tanto è vero che quando mi dicono Djokovic, no, tutti parlano di questo Djokovic, più grande campione, perché tutti considerano solo le vittorie, no? Ecco, però in questo tennis, noi dobbiamo fare riferimento a questo tennis, dove un grandissimo atleta come lui, molto dedicato, eccelle. Ma io te lo metto per iscritto che se fosse vissuto 15 anni fa, la sua vita non sarebbe stata difficile, sarebbe stata difficilissima. Sì, sono d'accordo con te, Vincenzo. Come la vedi l'epilogo? Cosa c'è scritto sull'ultima pagina di questo Wimbledon, secondo te? Io chiaramente oggi ti devo dire per forza che Djokovic è fortissimo, è bravissimo, riesce a fare tutto quello che vuole, eccetera, eccetera. Però io chissà perché nella mia testa c'ho Murray proprio scolpito. Cioè, io ho l'impressione che il vero favorito di questo torneo quest'anno sia Murray, che non dimentichiamo ha ritrovato il suo mentore Lenter, ha appena vinto il Queens, ha già vinto tante cose, quindi non ci arriva da sprovveduto, eccetera, e obiettivamente tecnicamente c'è qualcosina in più rispetto a Djokovic. Certo, per l'altro c'è una condizione atletica impressionante e la capacità poi, come si è visto anche in queste partite iniziali, anche ieri con Mannarino a un certo punto nel tie break ha fatto delle cose deliziose, ma l'altro gli alzava il ritmo talmente tanto a fondo campo che quello andava fuori giri. Certo. Questa è una grande qualità. Certo. Grazie Vincenzo, a presto. Ci risentiamo a stretto giro di posta per commentare le storie anche di Wimbledon. Ci vediamo qui ragazzi, torniamo domani, vigilia di Italia-Germania, preparatevi, tutti presenti alle 14. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione, ciao. Signori, alla prossima.